giorno di sole più caldo, il mio amore se ne volerà, arrendendosi alla sua sorte, il mio amore se ne volerà. Lascerà questo vecchio occidente, poi l'oceano le si aprirà, tra le lacrime delle radici e la sete di libertà. E stasera agli occhi più tristi, sulla strada per la frontiera, perché tanta ingiustizia nel mondo, proprio oltre questa frontiera. Vorrei fare di più la mia parte, mi dicesti in un giorno lontano, e tra gli ultimi del nostro tempo saldare i miei conti con l'uomo, per trovare la mia direzione sulla strada che porta a quel Dio che è negli occhi di tutti i fratelli, nelle viscere delle città. Dei sogni più tuoi, prenderai la via del cielo con un chicco di buona fortuna da piantare tra chi non ne ha avuta, e ad un fiore darai il nome mio. Sarà forte come una donna.